aprite! E perché deccio le mie came aprir? Ebbene, lasciate, l'apriran senza chiavi. Ehi, gente! Vorreste rapentello della dama l'onore? È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porti io prima chiuderò. Che imprudenza! Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo. Andiamo. Susanna starà qui finché torniamo.